Capitolo 32esimo. Tiche e Nemesi. Tiche è la figlia di Zeus, ed egli le diede il potere di decidere quale sarà la sorte di questo o quel mortale. A taluni essa concede i doni contenuti nella cornucopia, ad altri nega persino il necessario. Tiche è irresponsabile delle sue decisioni e corre qua e là facendo rimbalzare una palla per dimostrare che la sorte è cosa incerta. Ma se capita che un uomo, che essa abbia favorito, si vanti delle sue ricchezze e né mai ne sacrifichi parte agli dèi, né se ne serva per alleviare le pene dei suoi concittadini, ecco che l'antica dea Nemesi si fa avanti per umiliarlo. Nemesi, che abita a Ramnunte in Attica, porta un ramo di melo in una mano e una ruota nell'altra, e in capo una corona adorna di cervi. Uno scudiscio pende dalla sua cintura. Essa è figlia dell'oceano e la sua bellezza è paragonabile a quella di Afrodite. Taluni dicono che Zeus un giorno si innamorò di Nemesi e la inseguì per terra e per mare. Benché essa mutasse continuamente forma, egli riuscì infine a violarla assumendo l'aspetto di un cigno e dall'uovo che Nemesi depose nacque Elena, causa della guerra di Troia. Tiche, fortuna, come Diche ed Edo, personificazioni della legge naturale o giustizia e della vergogna, è una divinità artificiale inventata dai primi filosofi. Nemesi, debita esecuzione, era stata la dea ninfa della morte e della vita, cui gli stessi filosofi diedero un nuovo aspetto affidandole un controllo morale su Tiche. La ruota di Tiche rappresentava in origine l'anno solare come indica il suo nome latino Fortuna, da Vortumna, colei che fa volgere l'anno. Quando la ruota aveva compiuto mezzo giro, il re sacro, raggiunto l'apice della sua buona sorte, doveva morire, e il suo destino era preannunciato dai cervi di Atteone presenti nella corona di Nemesi. Ma quando la ruota aveva compiuto l'intero giro, il re si vendicava del rivale che l'aveva soppiantato. Lo scudiscio era usato nei tempi antichi per la flagellazione sacra, che aveva lo scopo di far fruttificare gli alberi e maturare le messi, mentre il ramo di melo era il lasciapassare del re per i campi elisi. La Nemesi che Zeus inseguì non era la personificazione filosofica della giustizia degli dèi, ma la dea ninfa originaria, il cui nome più comunemente usato fu Leda. Nel mito pre-ellenico è la dea che insegue il divino Paredro e, benché questi si sottoponga alle trasformazioni stagionali, essa si trasforma a sua volta e infine lo divora al solstizio d'estate. Nel mito ellenico le parti sono rovesciate. La dea fugge muta d'aspetto, ma il re la insegue e infine la viola, come nella leggenda di Zeus e Dimeti o di Peleo e Teti. Probabilmente queste trasformazioni rituali erano indicate sui raggi della ruota di Nemesi, ma nelle Ciprie Americhe si parla soltanto di un pesce e di vari animali. Leda è un'altra forma di Latona, in greco Leto, che fu inseguita da Pitone e non da Zeus. I cigni erano sacri alla dea sia per le loro bianche piume, sia per la loro formazione di volo a V, che è un simbolo femminile, sia perché a mezza estate si dirigono a nord per accoppiarsi in terre ignote e si pensò che portassero con sé l'anima del re defunto. La Nemesi dei filosofi era onorata a Ramnunte, dove, secondo Pausania, il comandante in capo dei persiani, che si preparava a innalzare un trofeo marmoreo per celebrare la sua conquista dell'Attica, fu costretto a ritirarsi quando gli giunse notizia della sconfitta navale di Salamina. Il marmo fu allora usato per farne una statua alla dea ninfa locale, Nemesi. Si suppone che da quel giorno in poi tale dea ninfa divenne la personificazione della vendetta divina, anziché della debita esecuzione dell'annuale dramma di morte. Dai tempi di Omero in poi, invece, Nemesis aveva significato quel caldo sentimento umano che suggerisce di pagare ciò che si deve e di portare a termine il proprio compito. Ma Nemesi, la dea ninfa, aveva l'appellativo di Adrastea, e Adrastea era pure il nome della nutrice di Zeus, una ninfa del Frassino. E poiché le ninfe del Frassino e le Erinni erano sorelle nate dal sangue di Urano, ciò potrebbe spiegare come mai Nemesi finì col personificare la vendetta. Il Frassino era uno degli aspetti in cui la dea si trasformava stagionalmente ed era un albero molto importante per i pastori suoi devoti, poiché era associato con i temporali e con il mese in cui nascevano gli agnelli, il terzo dell'anno sacro. Nemesi è detta figlia di Oceano, poiché come dea ninfa dal ramo di Melo, essa rappresentava anche Afrodite, nata dal mare, sorella delle Erinni.